fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sì, per raccontarsi, per raccontare. Questa sera, qua al Ristorante Convento, siamo finalmente in radio. Abbiamo tre splendide ragazze e cedo la parola al mio collega Sandrino, che fa finta di non sentire, ma non raccoglie. Raccoglie o no? Ci sono, oh. Mister Dave. Devo dire subito una cosa a tutto, sì, il pubblico a casa. Sì. Perché per chi dice che le bolzanine sono fredde, stasera le smentiamo, vero ragazze? Assolutamente. Ormai non abbiamo più voce perché... Perché non avete più voce? Perché avete fatto casino tutta sera. Continuano a urlare, a ululare direi. Afone? Ecco. Afone? Sono afone. Sì, Valentina assolutamente. Mi fate un ululato personalizzato al microfono? Ma è ululà o ululì? Lupolulà e loro lupolulù qua. Bellissimo. Allora, voglio sentire prima l'ululato dell'avvocato. Vai, avvocato. Quella... che si chiama? Alice. Poi... sono di Bolzano. Ecco, però sei comunque caliente, giusto? Alice guarda i gatti e i gatti guardano le Alice, esatto. Ecco, tra l'altro ci sta facendo la faccia da Alice, per caso che a casa non ci possono vedere. Alicciati. No, non ci vedono? Ci vedono? Sì. Ah, ci vedono? Sì, io da qua non vedo. Ok, però passiamo all'ululato della commercialista. È un po' allupata stasera, io ci tengo a dirlo. È rampante questo ululato. Sì, molto rampante. Hai visto che andava su? Mentre la nostra Alice era... Io non ho voce. L'ululato del commercialista. Non ho più voce. Sì. Come si chiama il commercialista? Alexa, ecco. Perché è l'emozione non ha voce. No, però Alexa ce l'ha, Tra l'altro mi apre anche le finestre, È fantastica. Alexa, aprimi le finestre. Ecco, perfetto. E poi, dulcis in fundo, abbiamo lei, la sposa postuma della serata. Che non ha più voce. Le avete schiacciato il piede? Mi rendo conto che sia una cosa orrenda da sentire in radio. Chiedo scusa a tutti quanti che sono all'ascolto. Secondo me stava digerendo la cena. Era un misterutto questo anche. Era un ululato misterutto della nostra sposa Valentina. Sposa postuma. Ecco, tutti a casa ci staranno chiedendo, anzi me lo sono chiesto io, dire vero, perché ti ha sposato Valentina. La domanda clou della serata. Perché mi ha sposato? Perché sono intelligente. Ecco, esatto, questo. Esatto, il grande mistero della serata. Brillante, bella. Mi vogliono un sacco bene le mie amiche che mi accompagnano questa sera. Secondo te, Mr. Dave, a casa in quanti ci credono? Tutti. Lanciamo un sondaggio. Apriamo le telefonate. Ah, sì, è vero. Abbiamo pure le telefonate. Sì, ci abbiamo tutto. Possiamo mandare anche messaggi agli amici da casa. Sì. Come si chiama il marito? Alan, si chiama Alan. Alan. Ciao, Alan. Lo svegliamo adesso? Possiamo chiamarlo in diretta? No, sta dormendo. No. Sei sicura? Sicurissima, ha lavorato fino a tardi. È un coccolone? No, gli viene un coccolone. È un coccolone a cui viene un coccolone, sì. Però guarderà coccolone. Il podcast sicuramente. Sì. Lui guarda sempre il podcast. Sì, soprattutto se a casa li fa. Soprattutto se a casa da solo guarderà un podcast questo ragazzo. Sandrino è sempre. Diciamo sul podcast andante. Esatto. Sì, comunque, torniamo a noi. Alan, allora ti ha sposato per l'intelligenza? Sì, per l'intelligenza. Possiamo partire con tre varianti, giusto che siamo in tema. Intelligente, simpatica. E mettiamoci una caratteristica fisica che manca. Dai, chiedo. Facciamolo dire alle amiche. Meraviglioso. È un flipper meraviglioso, ecco. Hai visto anche che orecchie. Ah, perché si fa la presa lì, anche. Ecco, da casa non ci possono vedere. Però Valentina ha una caratteristica particolare che ha, è l'unica. L'amore. Le orecchie. Me la descrivete voi, dai, fatemi una descrizione di Valentina. Filippo, ma perché dobbiamo parlare di me? Filippo, ho deciso di chiamarti Filippo perché al momento mi sfuggiva il tuo nome. Perché il leitmotiv della radio è per raccontarsi, per raccontare. Sì, ma ci sono un sacco di cose. Parlare, cioè conta su. Descrivete Valentina com'è. Gli amici da casa si chiederanno com'è Valentina. Me la descrivete, ragazze? Fisicamente. Beh, gli occhi verdi. Non interessa poi? ha un bel culo. Eccoci, ci siamo. Colpo di schiena, grandissima. È intervenuto il l'avvocato, potresti twerkare, faccio un bel twerk. Ma chi è capace? In radio è vietatissimo twerkare. Assolutamente non ci stiamo obiettivamente parlando. Però se twerki vai a sbattere dietro. Cosa vuol dire con parole povere twerkare? Cosa vuol dire? Se dovessimo spiegarlo per gli amici da casa. Casa o a casa? Bisogna scegliere le parole. Muovere concitatamente il sedere. Avanti e indietro. Ah, per davvero? No, su e giù. Su e giù, avanti e indietro. Su e giù, avanti e indietro. Basta muoverlo. È bello che Valentina si è messa a twerkare, nessuna la vede. Cioè. Sto tentando di interpretare il su e giù, perché avanti e indietro aveva un senso. Ullo. Ma su e giù, cioè, sì, tipo tappo di sughero che galleggia nell'acqua. Possiamo dirlo perché non siamo più in fascia protetta, eh? Certo, no. Però quando andrà in replica, magari alle 3 del pomeriggio, ahimè, sì, però si è messa a twerkare. Sì, ha twerkato. Pensa che. Sì, ma non è una cosa volgare, cioè è una cosa che si usa che nel si ballo. Fa, si usa, no? Cioè, tu fai un ballo, c'è cioè il passo di lato, twerki, salti su, giri a destra. A salti su dove? Salti sul cubo, okay. Così vabbè, bisogna precisare, bisogna contestualizzare ogni parola. È perché gli amici a casa adesso iniziano a incuriosirsi. Ma io non credo che loro sappiano di cosa stiamo parlando. Io non lo sapevo, pensavo che fosse un barese che vede una persona turca. Alla turca. Dipende dai punti di vista. Dipende anche dal grado alcolico che tu hai nel corpo. Tipo Lino Banfi, no? Non ero preparato. Non eri preparato. Sì. Sì. Mi sei bloccata lì, cioè, però. No, il caldo pian piano ci sta prosciugando. Sì, colpa vostra, perché le bolzanine non sono fredde come si direbbe. No, è esatto. Perché è bellissimo anche il condizionatore tenerlo lì chiuso proprio. Beh, è d'esposizione. È utile. È come la nostra stanza adesso, ragazzi. 57 okay. Gradi, sono lasciato acceso il condizionatore sul caldo. Perché il. Cosa? Perché dillo? No, mi è piaciuto. Le... Non si può tossire. Non si può tossire? Eh no. È vietatissimo. Allora, quindi sulla twerka della Valentina siamo rimasti sulla tutti turca. Un po'. Sulla turca? Anche sulla turca adesso? Forse è per quello che deriva il. Mamma li turchi! Perché la turca come posizione effettivamente. È la posizione. È la posizione da... Com'è la posizione da turca? Non l'ho mai sentita. È il gabinetto, no? Che deriva da quella alta filosofia sulla si vede proprio nel momento del bisogno. Queste ore della notte vengono fuori. Ringraziamo la commercialista che ci dà queste pillole di saggezza. Alexa fa tutto. Alexa, è vero, basta chiedere ad Alexa, lei ti risponde. Ecco. Di inventarle le cose. Ehi Alexa, come mai? Mi rispondi in voce Alexa? Mi svegli domattina alle ore 8, per favore. Devo buttare una sveglia alle ore 8? Comunque basta, quindi la storia è così della twerka, l'abbiamo scoperto. A Bolzano si twerka tantissimo? O non si twerka? È sport. Regionale. Sarebbe bello domani, quando passeggiate per Bolzano, che a un certo punto tutte e tre vi bloccate e fate una twerkata per il corso, va bene? Me lo fate? Ah, non per il convento, per gli amici del convento. No, in corso. Così. Andrò a Bolzano appositamente per twerkare. Ecco. E domani anche tu al mattino quando svegli Alan con una twerkata. Scusate un attimo, una parentesi, è un po' stretta però. Cioè. Sta invecchiando Sandrino. Perché? Perché la telecamera sta inquadrando la tua nuca. C'ho la pelata? Sì. Ma che cavolo. È la piazzola. Aspetta che è di emergenza. Mi ha fatto vento. Si vede ancora? Che cavolo. Aspetta adesso che. Sono per non stare troppo vicino all'avvocato, perché poi mi denuncia l'avvocato. Quindi ok, siamo tornati a noi. Domani, promesso, twerka in piazza. Giusto? Tu twerka al mattino ad Alan. Tu commercialista ce l'hai il maschio? Sì, certo. Ok, come si chiama? Jerry. Nell'intimità lo chiami Jerry? No, si chiama Jerry proprio. Ah, proprio Jerry. E tu Tom? Non si chiama Caloger in realtà, però tutti lo chiamano Jerry. Veramente? Davvero? Ma è tipico di Bolzano, Caloger. Sì, è tipico? Su Tiroler proprio. Su Tiroler, così? No, dini qualcosa in tedesco? Siciliano, chi io? Ti capisce? Quando cosa? Dili qualcosa in tedesco. Ah no, lui non capisce il tedesco. Io lo dico io. È siciliano. Ma sapete come ha fatto a sedurla Gerolamo qua? A 10 Dauzi. Calogero? Ma Jerry. La prima frase che gli ha detto quando l'ha vista, gli ha detto: "Ich habe eine grosse Katze". Le piacciono molto i gatti. Che la traduzione è fatela voi, perché magari qualcuno da casa mi fraintende. Tutta la frase. Ho un grosso gatto. Ecco, lei subito si è innamorata. Queste sono storie incredibili. A te invece come ha fatto Alan a farti innamorare? perfetto, non sei ancora innamorata. Mi è andata in ferma immagine. No, perché ci sono tante cose, per cui non saprei dirne una. E lui e basta. È intelligente. Cioè, è lui e basta. Cioè, lui si è presentato, ha fatto il mimo e. No, mi ha corteggiato tantissimo. Poi è proprio una persona meravigliosa, intelligente, colto. Sensibile, una persona, ce ne sono poche come lui. E ha un bel culo. Vero. Mi piace che l'avvocato non dice niente e dice solo due frasi, come il cuculo, ogni quarto d'ora. Ha un bel culo, ha un bel culo, ha un bel culo, ha un bel culo, ha un bel culo. Meno male che non domande parolacce. Sì, infatti, abbiamo detto, stiamo. No, non è una parolacce. No, è un'affermazione. Hai 60, no. Usciamo perché hai 90, direi, usciamo. No, giusto. Ma tornando all'avvocato, ma come fa a sapere che ha un bel culo, Alan? Beh, perché è evidente. Ah, evidente, sì. Ah, ok, no, pensavo ci fosse stato. Io non l'avevo mai notato. Vedi, Angelica, questa ragazza. Adesso quando vedrò Alan sarò. Ricordiamo che Alexa è quasi chierichetta, ricordiamolo. Quasi santa. È quasi santa. Ha finito la voce. Esatto. Ultima domanda prima di lasciarci: come ha fatto a chiederti di sposarti? Era il mio compleanno e eravamo in Sardegna e pensando che mi regalasse una borsa di Desigual mi ha detto guarda dentro c'è il regalo, io ho pensato è il portafogli in tono, e invece no, era la scatoletta con l'anello e mi ha chiesto se volevo sposare. E sei inginocchiato? Sì. E in quel momento? Sono svenuta. Davvero? Psicologicamente sì. Ah. Poi mi sono ripresa dopo poco. Sì? E gli ho detto sì. E lui si è svenuto lui allora. Anche. Detto, pensavo che dicesse sì. Siamo usciti a cena, ma nessuno dei due ha mangiato comunque. Se ma te l'ha chiesto durante la cena? No, no, eravamo a casa su questo terrazzone. Da soli? Sì. È uno stratega. Sì. Sapeva che c'era la ricompensa dopo. C'è stata? Ma non ho parlato per 40 minuti, vedi tu che ricompensa. Attenzione, attenzione. Abbiamo scoperto anche i tempi medi di Alan. Sì. Non è vero, non ho parlato per 40 minuti. Quando ho ripreso il dono della parola ho scritto a lei. Neanche dono della all'avvocato, parola. All'avvocato, giustamente. Messaggio. E l'avvocato cosa ti ha risposto? Cosa aspettavi a dirmelo? No, no, aspetta, fammelo dire lei. Sì, ha un bel culo. Grande avvocato. Grande, un saluto Mr. Day, dobbiamo salutarle. Un saluto a tutti e con questo buona continuazione. Ciao ragazzi. Volete salutare qualcuno a casa? Sì, tutti quelli che hanno un bel culo direi. Grande. Ciao. Le bolzanine calienti, ciao. Ciao a tutti. State ascoltando Ristoradio.